piace. Di Raffaella Calandra. Mi sono ritrovata una bella scritta sulla finestra della scala che recitava Fuck you, e io, siccome sono una che non le manda a dire, ho mandato la traduzione arricchita a tutti i condomini. I portali in pietra, i soffitti alti, le volte stuccate. Siamo in quello che si direbbe un condominio signorile, ma soprattutto siamo in uno dei tantissimi palazzi d'Italia dove si litiga, e tanto. Cadono le barriere sociali quando si parla di liti di condominio, che intasano le scrivanie dei giudici, con buona pace di tutte le riforme pensate per allontanare dai tribunali le beghe di cortile, appunto, che non di rado però cadono nel penale, come si dice in gergo, quando cioè dall'insulto si passa all'aggressione, quando non addirittura all'omicidio. Agli italiani piace litigare, e da qui allora, da uno qualsiasi dei palazzi delle nostre città, parte questa puntata di Storiacce, quando il condominio diventa un campo di battaglia. Ha aggredito il vicino di casa scagliandogli contro il suo pitbull e armato di coltello. Qui in via Mercalli a Gela una lite familiare ieri sera è degenerata in rissa. Rumori assordanti che non sono andati giù a Cristian Minnella. Un battibecco tra condomini, una banale lite degenerata e conclusasi con un agguato. Ad Afragola in via Ciaramella la scorsa notte un ex guardia giurata ha ferito a colpi di fucile in maniera lieve 6 vicini di casa. A volte finisce anche così, con morti e feriti. A volte il condominio diventa letteralmente un campo di battaglia, dove si litiga e ci si provoca, spesso per anni, dove grandi problemi o piccole beghe diventano la miccia che fa esplodere tutto. Pure la strage di Erba, ricorderete, a Como, la famiglia sterminata da Rosa e Olindo, in fondo partì per una lite per il rumore del piano di sopra. E se quello fu proprio un massacro, non pensate che siano delle eccezioni così rare questi casi appena sentiti. I casi di una pistola impugnata contro il vicino, e c'è anche chi, come è successo a Forlì, ha pensato di fare il samurai e imbracciare il katana. Così da nord a sud si contano i delitti per futili motivi, e soprattutto ogni giorno chili e chili di carte arrivano in tribunale. Ancora di più ora in tempi di crisi, ancora di più ora che i palazzi diventano multietnici, e ancora di più ora che a 5 anni dalla sua introduzione la mediazione ha rivelato la sua inefficacia. Sono gli esperti a dirlo e sono le storie a provarlo, storie di scontri per una facciata, un tetto, un rumore, un animale o un parcheggio diventate fascicoli giudiziari. Storie che diventano ben presto anche di insulti, e c'è chi addestra pure il proprio pappagallo per offendere, come sentirete in questa puntata di Storiacce. A dispetto di quanto si possa credere, si va avanti con le liti soprattutto nei condomini della media e alta borghesia, dove più che al portafogli ad un certo punto si bada alla questione di principio. E allora ad insulto si risponde con altro insulto, come è successo in una palazzina milanese quando una signora ha cominciato a rompere le scatole per far togliere un tetto di Ethernet. L'amministratore precedente aveva fatto fare tutte le analisi eccetera ed era venuto fuori che il tetto andava rifatto entro un anno. Hanno messo in piedi tutta una guerra in cui hanno fatto fuori l'amministratore. Ho fatto una denuncia in comune. Certo, anche perché un tetto in Ethernet crea anche problemi di sicurezza. Certamente. Oltretutto sfarinava, insomma, il tetto è stato rifatto. Che cosa è stata questa guerra nei suoi confronti? Mi sono ritrovata una bella scritta che recitava Fuck you. E io, siccome sono una che non le manda a dire, ho mandato la traduzione arricchita a tutti i condomini. E i dispetti nei suoi confronti sono proseguiti o sono finiti lì? Certo che sono proseguiti con una bella richiesta di arbitrato, il quale arbitrato si è concluso con torto al condominio. In un'assemblea, siccome a un certo signore era stato pagato il garage perché lui sosteneva che le piantane del ponteggio gli impedivano l'accesso, e io in assemblea ho detto non è vero, basta entrare a marcia indietro. Si è fatto rimborsare un garage perché non sa guidare, e questo mi ha anche messo le mani addosso. Ma se c'è un punto su cui tutti sono suscettibili in Italia, si sa, è proprio la guida. E poi se è una donna ad accusare un uomo di non saper guidare, beh allora apriti cielo. Le auto e il parcheggio sono tra i motivi più frequenti di liti portate davanti ad un giudice, ma al primo posto restano i rumori. Rumori di ogni genere, il rumore dei tacchi, il rumore delle sedie, il rumore pure dell'acqua del tè, come sentirete, di ben altra entità è l'abbaiare dei cani. Avete anche voi questioni di questo genere? Volete raccontarci il vostro caso? Scriveteci una mail a storiacce@radio24.it o ci trovate sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Dicevamo gli animali anche loro sono portati sempre più spesso in un tribunale. 32.000 nel 2014 le liti legati ad animali, calcola l'Associazione Italiana Difesa degli Animali, quasi totalmente per i cani, 7.000 invece quelle legate ai gatti, ma in 12 casi la questione partiva dagli insulti di un pappagallo addestrato per offendere l'amministratore di condominio, come è successo a Reggio Emilia. A modi assai violenti aveva fatto ricorso invece a Roma, in zona Marconi, in un quartiere molto popoloso, un condominio infastidito da un mare in mano, come racconta l'amministratrice Maria Piccone. Ma dove gli animali sono molto spesso in casa e spesso abbaiano molto, spesso abbaiano in orari particolari e molto spesso c'è la persona che reagisce e reagisce male. Ecco, nello specifico che cosa è successo nel condominio che lei amministra? La persona che era arrivata all'esasperazione ha buttato una polpetta con una lametta all'interno. Per uccidere il cane? Per uccidere, o perlomeno per zittirlo. E il cane ha mangiato questa polpetta? Allora, la prima volta sì, hanno dovuto naturalmente intervenire nell'immediato. Dopodiché c'è stata una risposta verbale da parte del proprietario del cane, molto dire intimidatoria e poco. Tra l'altro oggi per legge il cane ha la possibilità di abbaiare e quindi non ci sono, a meno che non si finisca in causa, e lei sa come funzionano queste cose probabilmente, o forse molti certo, non lo sanno, ma certo. Insomma, bisogna proprio verificare quanto questo latrare crea problemi proprio a livello proprio acustico con l'intervento di tecnici e quant'altro. Tanto nei palazzi che si direbbero signorili quanto nei condomini di edilizia più popolari si litiga, e si litiga tanto, anche col gusto di farlo. Ma questo diventa nuovo lavoro per un giudice, soprattutto nei quartieri socialmente più alti, conferma l'avvocato Augusto Cirla, segretario nazionale dell'Associazione Italiana Condomini. I casi più frequenti sono sicuramente le parti comuni, le facciate per esempio, che la riforma ha portato definitivamente nell'elenco dei beni comuni, e beh, gli abusi da parte dei condomini, negozi che aprono vetrine magari in stabili anche di pregio, se ne stanno verificando con frequenza. Quindi. E poi parlo del cortile, degli ammezzati che vengono magari inglobati nel singolo appartamento. Il caso più classico di uso comune dei liti sono i parcheggi, magari rumori, fumi, soprattutto il condominio è diventato multirazziale, quindi esigenze magari di diversi condomini l'uno con l'altro, e porta sicuramente delle incomprensioni, cadono davanti ai tavoli dei giudici. La tipologia del cibo diverso usato nei condomini influisce a questo nascere di contenziose che finiscono davanti ai giudici, ma anche le occupazioni delle parti comuni, perché determinate tipologie di persone hanno l'abitudine ad esempio di lasciare le scarpe fuori sul pianerottolo. Sembra una cretinata, ma questo crea problemi al condomino che è di fronte. Che sicuramente non è un bel vedere. Quanto spesso, diciamo, queste incomprensioni tra condomini diventano anche delle liti con iter giudiziari lunghi, costosi, e lo sappiamo, ma a volte, e la cronaca ci dimostra, diventano anche delle liti a volte anche gravi. Ci sono capitati dei casi che veramente si è arrivati all'eccesso per l'uso di un posto auto in cortile, con violenze, lesioni. Anche l'assemblea è diventata a volte più violenta, perché il condomino è, io uso un termine un po' esaurito ultimamente, vuoi per la pressione, le spese condominiali influiscono sempre di più, i redditi diminuiscono. Quindi la crisi ha reso anche le assemblee di condominio, certo, un momento di sempre maggiore tensione. Certo, tensione che sfociano, ahimè, anche in classiche risse. Fantozzi, ancora una volta, aveva visto giusto. Ugo, sei prudente. Pina, non esagerare, ne ho passate anche di peggio nella vita. Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini. Dichiara aperta la seduta! Insomma, non chiude mai l'ascensore! Ma Lei è un moroso! Lei è un cornuto! No, lei deve ancora tirare! Eccole! Uno! Tre! Oh! Ai ai ai, nell'assemblea del condominio esce il peggio di ogni gringo, il vicino può matar. Un po' di tempo sta prendendo piede anche il cosiddetto stalking condominiale, ricordate questa parola perché se ne parlerà ancora, ma anche il ricorso alla giustizia a volte diventa un abuso, per non parlare dei costi, perché litigare costa e non poco, per i tempi lunghi, per i prezzi degli avvocati, per le spese varie, ma nonostante ciò tutti lo vogliono quel pezzo di carta in marche da bollo, cioè la sentenza, e sono pronti a evocarlo anche per una tazza di tè, come sentiremo nella seconda parte di Storiacce. Storiacce. Fatevi! Lascialo perdere, che non fa nulla! Non parlate alle mie spalle, Giuda! E segni tu chi sta l'uomo! Sì, sto l'uomo io! Non lascio il mio... Lasciami che t'accoro pure a te! Stavolta la faccio finita! Accattoni! State zitta, la mannara! Se le dicono di santa ragione in questo vecchio film di un'Italia che non esiste più, ma che invece resta uguale a se stessa nello scontro tra vicini di casa, nella violenza, ma anche nel gusto, ammettiamolo, con cui ci si insulta. È cambiata l'Italia e sono cambiati i nostri palazzi, sempre più multietnici rispetto a quegli anni. E come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, anche questo contribuisce ad aumentare la propensione alla lite. Culture diverse, esigenze differenti, eppure cucine diverse, e quindi odori diventano motivo di contrasto, come le scarpe lasciate fuori la porta, come abbiamo sentito. Davanti ad un giudice arriva di tutto, pure la storia di 12 casi di pappagalli ammaestrati per insultare l'amministratore, e aveva minacciato le vie legali anche una giovane coppia romana per il rumore del bollitore del tè dei vicini di casa, ci racconta l'amministratore Maria Piccone. Lamentava il fatto che una coppia giovane, che la moglie incinta si svegliava alle 6:30, addirittura alle 6, perché i vicini, che invece erano persone anziane, e le persone anziane spesso hanno l'abitudine di svegliarsi molto presto, andavano in cucina per prepararsi il tè. In questo caso non c'è nemmeno il problema della denuncia contro ignoti o altro, perché l'uso dell'acqua non si può impedire, soprattutto l'acqua, certo, della cucina, certo, ma anche dove fosse altro tipo di acqua, cioè la persona che deve farsi tutte le mattine la doccia perché alle 6, perché deve andare al lavoro e ha un orario particolare, non può subire l'intimidazione di un altro condomino che dice: io però sento il rumore dell'acqua e mi sveglio. E come è andata a finire tra queste due famiglie? È andata a finire che, appunto, su suggerimento dell'amministratore, la persona che sentiva questo rumore ha isolato le pareti della sua camera da letto. Però si era arrivati alla minaccia che se la moglie di questo condomino che era incinta avesse per caso abortito, che insomma è assurdo, e però perché si svegliava tutte le mattine alle 6:15, 6:30 ed era imbestialita perché svegliata in questo modo, e avrebbe denunciato il condomino vicino perché apriva l'acqua a quell'ora. Viene purtroppo da ricordarsi, ed è stata una vicenda ben più drammatica, che proprio per il discorso di rumori di vicini di casa e per il discorso dell'isolamento anche delle pareti era stata compiuta la strage di Erba. Sì, sì, per fortuna sono casi limite, cioè non si può arrivare a questo. Contro gli amministratori rappresentati dall'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio si scagliano sempre più spesso gli inquilini, soprattutto ora per ragioni di morosità, perché ora con la crisi aumentano i ritardi e gli inquilini che non pagano affatto. Ma la passione italica per la lite a carte bollate sfocia a volte anche negli abusi, per cui si sventola lo stalking condominiale, le pressioni, cioè la persecuzione da parte dei vicini o da parte dell'amministratore, anche quando in realtà non servirebbe. Delicato e complicato scegliere l'amministratore, questo va detto, e l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio anche per questo ha tracciato un vademecum assai utile, soprattutto ora che la figura dell'amministratore è cambiata con una riforma non ancora effettivamente recepita, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, ma ci si trova anche in situazioni di condomini che sono anche amministratori o di amministratori che diventano la longa manus di condomini praticamente monopolisti, e i termini di azione allora degli inquilini quali sono? Se lo ha chiesto una signora milanese, proprietaria di un appartamento in una zona abbastanza centrale. Se lo ha chiesto ora che le spese sono lievitate a 9.000 euro all'anno e ora di fatto è costretta ad andare fuori casa per una lite di condominio, appunto. Da qualche anno che le spese sono via via lievitate, tant'è che adesso arrivo a pagare 9.000 euro l'anno. Non c'è riscaldamento centralizzato e non c'è portineria. L'oggetto del contendere mi sembra di capire che sono queste spese elevatissime per me, perché ecco, 9.000 euro all'anno per che cosa? Che tipo di spese sono state? Vabbè, le spese a mio avviso gonfiate su tutto, non lo so, sono in causa, adesso abbiamo un'altra causa per queste cose qui, non se ne viene a capo, cioè per parecchio tempo non ci ha mostrato i giustificativi. Ma e quindi vi siete rivolti, avete avviato un iter, sì, un iter legale. Con un legale e quindi giudiziario, da della quanto cosa. Tempo è stato avviato? Ma insomma sono 2 anni, ho avuto querele false da cui sono stata assolta, ovviamente di tutto e di più mi è capitato, no? Quindi teme di doverlo vendere se non svendere? No, ecco, io voglio andarmene, ho deciso di venderlo, ma ovviamente con queste spese, non, pur essendo un bel appartamento, piace tutto quanto, però ecco, le spese ovviamente la gente evita di comprarlo. E quindi teme di doverci rimettere ulteriormente? E chiaramente lo scopo a mio avviso è quello che lo debba vendere a questa persona, doverlo svendere, cosa che non voglio fare comunque, continuo ad oltranza. In sostanza una lite di condominio la sta spingendo fuori casa, quindi a cambiare casa? Per forza. Sono nelle mani di questa persona che è proprietario, anche amministratore fino a poco tempo fa. Quante di queste questioni arrivano ad un giudice e quanto invece si riesce a risolvere con l'istituto della mediazione introdotto 5 anni fa, proprio con l'obiettivo di alleggerire la macchina intasata della giustizia civile? Poche volte, come abbiamo dimostrato sul campo e come ci conferma uno dei massimi esperti, Augusto Cirla, avvocato, segretario nazionale dell'Associazione Italiana Condomini. Come organismo la mediazione in sé funziona a tempi anche relativamente rapidi e quant'altro, è proprio la mentalità del condomino che, ahimè, vuole il provvedimento del giudice. Quando la mediazione invece è utilissima, quando ci sono delle mere irregolarità formali, l'avviso di convocazione che non è pervenuto, è arrivato fuori dai termini, non parliamo poi del contenzioso tra condomino e condomino, sinceramente la riuscita della mediazione è davvero minima. Poi in realtà la maggior parte dei contenziosi sulle liti di condominio sono soprattutto tra condomino e condomino. Sì. In fondo sì. Poi c'è la contrapposizione che è sempre più forte tra condomino e amministrazione. È vero che la riforma è intervenuta pesantemente sul ruolo dell'amministratore e quant'altro, però mi permetta di dire che è un concetto che magari gli amministratori non hanno ancora ben recepito. Fino ad ora, diciamo, questa riforma è ancora in parte inapplicata, mi sembra di capire. È inapplicata perché l'amministratore non l'ha ancora ben recepita, che è cambiata la sua professionalità, è cambiato il suo ruolo. C'è un profilo dei luoghi dove trovano terreno fertile maggiormente queste liti di condominio? Spesso il condomino, di fronte ai costi che deve sostenere per una causa, ahimè si ferma. La lite di condominio arriva fino a un giudice in quei condomini, direi, medio-alti. Quindi ribaltando quello che è un po' un luogo comune laddove si pensa che le liti di condominio sono soprattutto dei caseggiati più popolari, in realtà no. Diventano questione giudiziaria nei condomini medio-alti. Sì, perché proprio il fermo è dato dal costo. Se il condomino contesta un importo che gli è stato addebitato dall'amministratore del condominio per, che ne so, 1.000 euro, 2.000 euro, ma la deve spendere 3-4 per la causa, ti conti in tasca se li fa. Così non se lo fa il condomino, che effettivamente magari è in un condominio di più alto livello, che non ha quei problemi, e attenzione, scattano le cause di principio. Ma in fondo un grande condominio è anche l'Olimpo. Linea allora alle mitiche storiacee e a Giorgio Ioranò, professore dell'Università di Trento e autore, tra l'altro, degli Eroi della Guerra di Troia per Sonsogno. Mitiche storiacee. certe vicende della vita quotidiana evidentemente sono immutabili da millenni. Dall'Egitto dei faraoni, per esempio, arrivano gli insegnamenti di Ptahotep, una sorta di Galateo egiziano di 3500 anni fa. Qui si parlava già del buon comportamento con i vicini. Non svaligiare la casa dei vicini, ammoniva Ptahotep. Non appropriarti dei loro beni per evitare che ti denuncino. Passano i secoli, in Egitto arriva Alessandro Magno, arriva una nuova dinastia greca e anche nei papiri di quest'epoca ci sono documenti che raccontano liti e denunce per questioni di vicinato. C'è per esempio il vicino che ha spostato troppo in là la recinzione del suo terreno e il danneggiato subito lo denuncia al re. Non parliamo poi dell'antica Roma, dove c'erano le insule, agglomerati urbani che sono la cosa più simile ai nostri condomini. Qui il mestiere dei portieri, chiamati ostiari, era spesso quello di sedare le liti, anche con le cattive maniere. Molti ostiari, non a caso, erano ex legionari abituati a picchiare duro. I greci poi, che amavano attribuire alle loro divinità tutti i vizi degli uomini, rappresentavano l'Olimpo stesso, casa comune degli dei, come una specie di grande e rissoso condominio. Le liti fra divinità sono raccontate già da Omero, che nell'Iliade inserisce un episodio abbastanza scabroso. Quando il marito Efesto esce di casa per andare al lavoro, la dea dell'amore Afrodite lo tradisce con il vicino Ares, il dio della guerra. Nel condominio degli dei succedeva pure questo. In chiusura, come sapete, questo è lo spazio della segnalazione riservato a voi ascoltatori. In tanti ci avete scritto, grazie. Questa settimana ho due segnalazioni che riguardano però invece proprio le storiacce, perché le storiacce si aprono sempre di più a voi, agli ascoltatori. Diteci cosa vorreste ascoltare, cosa vorreste che approfondissimo, e diteci anche se avete storie da segnalarci, piccole o grandi che siano, perché ora ci sarà anche sul sito una sezione dedicata a voi. Scriveteci alla mail storiacce@radio24.it o ci trovate sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Seconda segnalazione. Le mitiche storiacce sono protagoniste di un dialogo sul mito mercoledì alle 18.30 ai frigoriferi milanesi in via Piranese. Se volete incontrarci, vi aspetto. Per riascoltare invece questa come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.